Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho pensato in queste ore a Claudio Baglioni, che anche lei ricorderà come un uomo romantico, perfino delicato, no? Che guardava le magliette trasparenti. A pensarci oggi, ha fatto una canzone con il titolo Ma vammori ammazzata, che pensavamo fosse l'espressione di una divergenza ideologica. Dice, invece era un messaggio subliminale, carico di violenza. E anche qui direbbe un camorrologo di corte e di salotti, messaggio carico di violenza camorristica. Ma vammori ammazzata. Queste, care ascoltatrici e ascoltatori, sono riflessioni oggi all'Ira TV di Vincenzo De Luca dopo la bufera di ieri, in cui anche Renzi, insomma, poi ha detto chiedi scusa, sono parole inaccettabili. Sapete, a Matrix aveva detto di Rosi Bindi, che lo aveva incluso nella lista degli impresentabili alla vigilia delle elezioni regionali 2015, aveva detto è stata una cosa infame da ucciderla. Oggi rifletteva così su Baglioni, ma anche su Verdone e su altri, dicendo insomma evidentemente sono allora da accusare anche loro. Poi in realtà poco fa, in una nota, Vincenzo De Luca ha detto va bene, le mie parole sono inaccettabili, mi scuso, però si continua a strumentalizzare e la faccenda insomma sembrerebbe per il momento finita qui, perché ci occuperemo di politica, ma di altro tipo di politica, quella che è incentrata ormai da tempo, in questi giorni in particolar modo, sul referendum. Tra l'altro a mezzanotte scade il tempo per pubblicare i sondaggi, quindi approfitteremo qui Effetto Notte e sentiremo quali sono gli ultimi sondaggi, quali sono gli ultimi dati di previsioni per il voto al referendum del 4 dicembre. Poi invece ci occuperemo di politica americana, naturalmente, perché comincia a prendere corpo il team, la squadra di Trump, e sembra che per il momento siano tutti i cosiddetti falchi, cioè ultraconservatori, uno che dice che l'Islam è un cancro dell'umanità, un altro che nell'ultimo tweet aveva detto non vedo l'ora di smantellare l'accordo nucleare con l'Iran, e un altro che ha accusato di razzismo. Insomma, le polemiche continuano a esserci in questi giorni, e poi vedremo anche che tempo fa in questo fine settimana. Anche a me, ci terrei per la mia voce che un po' di umidità in meno, un po' di freddo in meno, ma non è detto, ma sentiremo poi alla fine il nostro meteorologo Corazzon. Intanto, per interagire, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. E mentre voi riflettete sulle notizie del giorno, io ve le riassumo. Il vertice di Berlino, il presidente americano Obama invita gli alleati europei a cercare soluzioni comuni con la prossima amministrazione americana. Stati Uniti, la squadra di Trump prende corpo, alla giustizia il senatore anti-immigranti, alla CIA il falco Pompeo e alla sicurezza nazionale Session accusato di razzismo. I primi 1000 giorni del governo italiano non siamo soddisfatti, dice Renzi, ma le cose vanno meglio, e sul referendum Banca Italia avverte possibili turbolenze sui mercati, oggi ultimo giorno per i sondaggi. Roma, perquisite 19 società collegate all'ex sindaco candidato Marchini, operazioni sospette con Pop Vicenza e Pop Etruria, e Lazio, lui si dice sereno. Palermo, bufera sui 5 Stelle per le firme false, indagati dai PM, Grillo intima, si sospendano. Il caso di Roberta Ragusa, Antonio Logli, marito della donna scomparsa nel nulla quasi 5 anni fa, ha ottenuto il rito abbreviato per il processo in cui è imputato per omicidio volontario della moglie e distruzione di cadavere. Un caso di difterite non succedeva dal 96 in Italia per l'Istituto Superiore di Sanità, e colpa del calo dei vaccini. Gran Bretagna, sì, dei giudici a ibernare una ragazza di 14 anni morta di cancro, ho solo 14 anni, aveva scritto lei, ma so che sto morendo, datemi una chance. Riscaldamento globale, la Terra ha ancora solo 1000 anni di vita, lo sostiene lo scienziato Steve Hawking e invita a trovare un altro pianeta. Partiamo quindi dal vertice di Berlino, ultimo vertice ufficiale per il presidente americano Barack Obama. Obama ha incontrato i leader di Germania, Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna. È un messaggio di fiducia e di ottimismo quello che il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama consegna ai leader europei al termine del suo ultimo viaggio ufficiale nel vecchio continente. Leader europei, chiede Obama, che devono continuare a lavorare con la nuova amministrazione Trump per cercare di dare soluzione ai problemi comuni sulla base di quei valori fondamentali che caratterizzano Stati Uniti ed Europa come democrazie aperte. Obama ha sollecitato i leader europei a proseguire la collaborazione nelle istituzioni multilaterali, a cominciare dalla NATO. Sulla Siria, il presidente uscente ha ricordato come la de-escalation sia l'unica opzione possibile di fronte alla grave crisi umanitaria di Aleppo. Anche per la Libia, Obama si augura una rapida stabilizzazione, anche per gestire la crisi dei migranti che vede impegnati europei ed americani nelle acque del Mediterraneo. Sulla Russia, Obama continua a ritenere che Mosca vada coinvolta nelle grandi crisi, ma senza cedere sui valori fondamentali. In particolare sull'Ucraina, Putin dovrà rispettare tutti gli impegni presi con l'accordo di Minsk, senza i quali dovranno essere confermate le sanzioni già approvate. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. E ora Stati Uniti comincia a consolidarsi la squadra, a delinearsi la squadra del presidente eletto degli Stati Uniti. Jeff Sessions, Mike Pompeo, Michael Flynn sono le nomine annunciate ufficialmente oggi dallo staff di Trump, nomine che premiano i falchi repubblicani, fedelissimi del tycoon, spegnendo sul nascere le speranze dei democratici di vedere un Trump più moderato una volta finita la campagna elettorale ed entrato nella Casa Bianca. Nell'ordine i tre sono il nuovo segretario alla giustizia, il prossimo direttore della CIA e il futuro consigliere per la sicurezza nazionale. E nel corso di Effetto Notte di questa puntata cercheremo di conoscerne meglio il profilo. Torniamo a parlare di Europa. Il presidente della Commissione europea Juncker ha scelto Bolzano per un annuncio che gli chiedevano in molti dopo la disastrosa scossa che il 26 ottobre scorso ha piegato la Basilica di San Benedetto di Norcia e il suo campanile settecentesco. L'Unione europea, ha detto Juncker, si faccia carico della ricostruzione della cattedrale. La violenza del sisma ha ricordato anche ai più distratti un patrocinio che Paolo VI, fresco di nomina, creò nel 64, quando l'Europa era ancora quella di Adenauer e Schumann. Un legame che fu, diremmo oggi, un endorsement e che i media hanno ricordato sullo sfondo della drammatica ma spettacolare immagine che ha fatto il giro del mondo. Juncker, lussemburghese sanguigno, ha subito l'accusa di essere distante dal reale, lui che insiste nel definire la sua una commissione orgogliosamente politica. Un grande simbolo europeo e cristiano ridotto in rovina è parso la proiezione di un'Europa in crisi profonda. Per i monaci ricostruire è un atto d'amore, per Juncker un atto politico, per giunta telefonato. Ma è pur vero che l'azione può farsi pensiero e che proprio come l'Europa, anche il monaco fu avvelenato più volte prima di diventare santo e simbolo. Chissà che sostenere l'ostinazione dei benedettini che da 15 secoli costruiscono la loro visione del presente non possa essere di buon auspicio per una grande idea politica che ne condivide l'ambizione e tutti i rischi. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E per il Presidente del Consiglio Renzi, quella di oggi è stata una giornata piuttosto impegnativa, cominciata questa mattina appunto a Berlino, come avete sentito, e che è proseguita nel tardo pomeriggio con la conferenza stampa in cui Renzi ha riassunto i 1000 giorni del suo governo. Sentiamone un passaggio. Dal febbraio 2014 ad oggi il PIL è cresciuto dell'1,6%, ovviamente su 2 anni e mezzo. È diminuito il deficit, il rapporto deficit-PIL, è diminuito negli ultimi mesi, sta finalmente diminuendo il debito pubblico. Agosto-settembre siamo a 43 miliardi meno, poi naturalmente come sapete il debito pubblico si calcola sul PIL, ma il fatto che finalmente inizia a diminuire anche dal punto di vista dei valori assoluti mi sembra un gesto doveroso. Sono aumentati i consumi delle famiglie del 3%. Questo è un caloroso abbraccio a tutti quegli economisti che continuano a dire che gli 80 euro non hanno avuto effetto. Intanto l'opposizione si compatta sul no al referendum. Anche loro verranno spazzati via, anche kamikaze del no, come i D'Alema, Bersani, Berlusconi and Company, via la casta, avanti un governo legittimato dal popolo. E lo scenario prefigurato da Beppe Grillo, che sul blog parla del referendum del 4 dicembre come di una battaglia campale dove la posta in gioco è altissima. Ma per tutte le opposizioni quella data è l'occasione per voltare pagina e mandare a casa un governo che a loro dire non sta risolvendo i problemi del paese. Per Salvini Renzi sarà leader solo per altri 15 giorni, poi dice: io sono pronto, noi siamo siamo pronti, la squadra è pronta. Ma nel centrodestra continuano le fibrillazioni e le prese di distanza. Stefano Parisi annuncia un nuovo movimento, Energie per l'Italia, alternativo dice a Renzi alla sinistra. Non abbiamo più tempo di fare coalizioni che non portano a nulla, mentre Berlusconi chiede l'unità del centrodestra e di portare a casa il risultato e assicura il no non mette a rischio la stabilità. Nessuna instabilità, dice anche da Sinistra Italiana Arturo Scotto, capogruppo alla Camera. Renzi la smetta con scenari apocalittici. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso all'inchiesta della Procura di Palermo sulle firme false a sostegno della presentazione della lista del Movimento 5 Stelle. Il diktat di Beppe Grillo arriva via blog, come sempre. Chiediamo, scrive il leader del Movimento 5 Stelle, a tutti gli indagati dell'inchiesta di Palermo di sospendersi immediatamente dal Movimento non appena verranno a conoscenza dell'indagine nei loro confronti a tutela dell'immagine del Movimento e di tutti i suoi iscritti. È il segno che l'indagine della Procura di Palermo sulle firme false utilizzate a sostegno della lista presentata per le amministrative di Palermo del 2012 sta provocando un terremoto. Gli indagati sono almeno 8, tra parlamentari e militanti, ma potrebbero essere di più. Tutti saranno sentiti dai magistrati a partire dalla prossima settimana. La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie alla collaborazione del deputato regionale Claudio La Rocca, che intanto si è autosospesa dal Movimento, e di altri militanti. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Fisco, c'è anche Alfio Marchini tra i 23 indagati della Procura di Roma nell'inchiesta che ha portato oggi a una serie di perquisizioni presso un gruppo di società collegate alla Meteorios Capitals S.P.A., direttamente collegata all'ex candidato sindaco della capitale. Contestato il reato di concorso in false comunicazioni sociali delle società quotate, gli indagati avrebbero condotto operazioni finanziarie sospette che hanno interessato la Popolare di Vicenza e la Popolare dell'Etruria e del Lazio. Sono sereno, si chiarirà tutto, ha detto Marchini. E ora parliamo di questo caso di difterite in Italia. Non succedeva dal 1996. L'Istituto Superiore di Sanità avverte è una conseguenza del calo dei vaccini. In Italia, dopo anni, si è registrato un caso di difterite. Lo ha confermato ad un congresso di pediatria a Firenze il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, affermando di averlo già comunicato pubblicamente, ma di non poter aggiungere dettagli a riguardo. Ricciardi è poi tornato sui rischi connessi al calo delle vaccinazioni obbligatorie, in seguito al quale, avverte, ci si aspetta anche in Italia l'arrivo di casi di difterite e poliomielite, in aggiunta a quelli di pertosse e morbillo. Proprio il morbillo, ha continuato Ricciardi, potrebbe colpire 670.000 bambini non vaccinati. A questi, ha detto, vanno aggiunti circa 1,5 milioni di giovani adulti a rischio, per un totale di circa 2 milioni di persone suscettibili all'infezione. Nel 2015 la copertura vaccinale in Italia è scesa sotto la soglia del 95%, richiesta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella che assicura la cosiddetta immunità di gregge. Il dato si è fermato al 93,5%, ma in alcune regioni è ben al di sotto. In Italia non si registravano casi di difterite dal 1996, tuttavia nel marzo di quest'anno in Belgio è stato segnalato un caso fatale, un bambino di 3 anni non vaccinato morto a seguito della malattia infettiva, mentre l'anno scorso, nel giugno 2015, un caso di difterite era stato segnalato in Spagna dopo 30 anni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia dall'estero: Turchia è rivolta adesso nel paese, sui social e anche in Parlamento, sul nuovo disegno di legge che in Turchia ha per oggetto le bambine spose dopo essere state violentate se il loro aggressore acconsente al matrimonio. Questa è la proposta. Proposta presentata dall'HAKP, il partito conservatore di ispirazione religiosa del presidente Erdogan, al governo. Quindi da 14 anni le bambine intende depenalizzare per le bambine la violenza sessuale sulle minori se l'atto è avvenuto in modo consensuale, poi bisogna vedere come lo si può definire, e il suo autore accetta a quel punto di sposare la vittima. Il provvedimento sarà discusso martedì prossimo. E poi questa sentenza storica della Gran Bretagna: risvegliarsi magari fra qualche secolo e vivere ancora un po'. Un giudice britannico non se l'è sentita di dire no all'ultimo desiderio di una ragazzina di 14 anni condannata da una forma rara di cancro che le ha chiuso gli occhi il mese scorso. Con un verdetto quindi senza precedenti, nel Regno Unito ha ordinato questo giudice l'ibernazione post mortem. È perché ho solo 14 anni e non voglio morire, ma so che sto morendo, datemi una chance, così aveva scritto l'adolescente al giudice. Di nuovo in Italia con la cronaca, il caso di Roberta Ragusa. Antonio Logli, marito della donna scomparsa nel nulla quasi 5 anni fa, ha ottenuto il rito abbreviato per il processo in cui è imputato per omicidio volontario della moglie e distruzione di cadavere. Prosciolto una prima volta dall'accusa, il GUP dell'udienza preliminare bis, in seguito all'annullamento di quella decisione da parte della Cassazione, lo ha mandato a giudizio. La sentenza del processo è prevista per il 21 dicembre. E poi una notizia decisamente particolare dall'India, che detiene il triste record, quello di morti per selfie, 76 in due anni, seguita da Pakistan, Stati Uniti e Russia. Lo rivela uno studio pubblicato dall'Università americana Carnegie Mellon e dall'Istituto Indabrash di Nuova Delhi. In cerca del selfie perfetto, più persone sono morte in India che nel resto del mondo, secondo i ricercatori che hanno identificato su internet e sui social network un totale di 127 morti per selfie dal marzo 2014. Il fenomeno è talmente allarmante che durante il solo 2015 ci sono stati più morti per selfie che per gli attacchi di squali nel mondo, dicono i ricercatori, che però non forniscono una spiegazione particolare sul perché del triste record detenuto dall'India. E ora musica e Nobel. Bob Dylan dovrebbe andare a Stoccolma, dopo che in questi giorni ha detto non ho tempo per venire a ritirare il premio il 10 dicembre, dovrebbe andare a Stoccolma l'anno prossimo, in quell'occasione tenere la sua Lectio Magistratis per il Magistralis per il Nobel, lo rende noto l'Accademia svedese, quindi dice verrò l'anno prossimo e si vede che hanno pazienza di aspettarlo. E poi invece non dovrà fare molto tardi, perché lo scienziato americano Steve Hawking dice che il lo scienziato della teoria del tutto ha detto che alla Terra restano solo 1000 anni di tempo a causa soprattutto del riscaldamento globale, quindi dice dobbiamo espanderci nello spazio o su altre stelle, in questo modo un disastro sulla Terra non significherebbe la fine della razza umana, quindi invita a trovare un altro pianeta, chi l'avesse già individuato o dovesse farlo, insomma dia notizie. Intanto le notizie, diciamo le più importanti della giornata, sono finite qui. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte, e poi dopo la viabilità cominceremo ad affrontare gli argomenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi, avete sentito quindi come sempre all'inizio il riassunto della giornata, delle notizie più importanti, adesso cominciamo ad affrontare alcuni temi in specifico, mentre voi continuate con le vostre riflessioni tra la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per gli sms e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, si firma Balanzone, De Luca ormai è il paradigma del limite, dell'eccesso, stamattina al bar tra due litiganti ho udito dire sei più offensivo di De Luca addirittura, quindi poi dice invece un ascoltatore, non specifica a cosa si riferisce, mi raccomando, varie cose da tenere in mente sotto gli occhi, almeno mettete un riferimento, dice certo che per una violazione puramente burocratica in un fatto del 2012 emessa sotto indagine solo adesso lascia pensare, non so se si riferisce all'indagine in cui è coinvolto anche l'ex candidato sindaco Alfio Marchini, non lo so, però lo diciamo specificasse. E poi Andrea dice c'è ancora qualche genio che vorrebbe la Turchia nell'Unione Europea, penso a proposito di questa proposta di legge per quanto riguarda coloro che violentano in Turchia le bambine, se poi le sposano vengono perdonati. È probabile che sia per questo l'osservazione dell'ascoltatore. Continuate intanto con le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, e adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti e cominceremo ad approfondire il punto politico. A proposito di questo, allarme Banca Italia sul voto, forti turbolenze sui mercati, prevede Banca Italia a ridosso del referendum, e Renzi intanto dice ci sono ancora tanti indecisi, la partita è aperta. Bufera sui 5 Stelle per le firme false a Palermo, indagati dai PM, Grillo dice si sospendano. E poi una squadra di falchi con Trump alla Casa Bianca e alla CIA. E alla CIA l'addio di Obama intanto ai leader europei, e dice, raccomanda, lavorate col nuovo presidente. In Gran Bretagna questa sentenza storica, sì, dei giudici a ibernare una ragazzina di 14 anni morta di cancro, aveva scritto ho solo 14 anni ma so che sto morendo, datemi una chance. E poi De Luca che alla fine sulla questione, sugli insulti, diciamo, a Rosy Bindi chiede scusa, dice le mie parole inaccettabili. E intanto parte il movimento di Stefano Parisi, che si chiama Energie per l'Italia, ma Salvini dice un capo popolo senza popolo. Poi il capo della Banca Centrale Europea Draghi che dice l'Eurozona, in Eurozona c'è una ripresa moderata ma stabile. E per chiudere l'ex candidato sindaco di Roma Marchini, indagato per falso in operazioni sospette con la Banca Popolare di Vicenza, Etruria e Lazio, lui dice sono sereno. Dunque siamo al punto della politica del venerdì, come sempre qui a Effetto Notte, praticamente una politica tutta incentrata ormai sul referendum costituzionale del 4 dicembre, al quale mancano oramai 2 settimane. Oggi, tra l'altro, è l'ultimo giorno in cui è consentito pubblicare i sondaggi, i dati dei sondaggi. Allora, approfittiamo di Effetto Notte e subito coinvolgo il professor Roberto Dalimonte, che è politologo, docente di sistema politico italiano alla LUISS di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Dalimonte, buonasera. Buonasera a lei. E saluto intanto, poi parleremo anche con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Sentiamo adesso dal professor Dalimonte invece quali sono i dati, perché vedo per esempio, ne hanno pubblicato vari giornali, i vari sondaggi, ci sono, diciamo, prevale comunque il no anche se con delle distanze un po' diverse. Per esempio, secondo Ipsos ci sono 10 punti di differenza tra i no che prevalgono i sì, per Demos ci sono 7 punti, poi Euromedia invece ne segna 5, 3 per Demopolis. Lei anche ieri ha pubblicato un sondaggio su Sole 24 Ore. Come stanno le cose al momento, almeno secondo i sondaggi? Quello che lei ha già detto, cioè che la tendenza sembra chiara, cioè che il no è davanti al sì. Questo sembra un quadro ormai su cui convergono tutti i sondaggi che abbiamo visto in questi giorni, compresi gli ultimi pubblicati oggi. Sta poi la differenza tra certi numeri e altri è relativa, perché siamo sempre dentro l'errore statistico, quindi dobbiamo vedere soltanto la tendenza. La tendenza è che il no è davanti al sì, che non vuol dire che poi il 4 dicembre il no sia sempre davanti al sì, ma oggi è così. Comunque, professore, mi sembra che adesso ci sia la caccia agli indecisi, che non sono pochi, sì. Sembrerebbe. Cosa le risulta? No, assolutamente. Gli indecisi faranno la differenza, così come la differenza la farà soprattutto l'affluenza. Perché la cosa più difficile da stimare è chi va a votare. E quindi l'affluenza sarà determinante, soprattutto nelle regioni meridionali. Professore, ma secondo lei sono indecisi perché ritengono di non essere stati ben informati, non aver avuto la possibilità di informarsi, di aver capito bene, oppure perché ritengono che ci siano aspetti positivi e negativi sia votando no che votando sì? Entrambe le cose. C'è tanta gente che ancora non conosce bene i contenuti della riforma, il livello di informazione sulla riforma è ancora molto basso, gente che è confusa, perché anche le trasmissioni televisive non servono a chiarire le cose, in molti casi finiscono per confondere gli indecisi, chi non ha ancora un'opinione precisa, e quindi appunto tutti i fattori che lei ha detto entrano nella indecisione. Professore, sento che è in viaggio, quindi mi pare che sì. I dati che ci servivano li abbiamo. La ringrazio allora e la saluto, professor Roberto Dalimonte. Grazie a lei, grazie. A voi tutti. Grazie, buon fine settimana, professore. E siamo con la nostra Barbara Fiammeri. Barbara. Sì, buonasera. Ci riassume un po' le posizioni dei partiti a questo punto? È abbastanza semplice, abbiamo infatti Renzi da una parte, ecco, e il resto dall'altra. Il resto dall'altra. Quindi diciamo la personalizzazione fatta all'inizio, che diciamo questo neo di Renzi, regge ancora. Diciamo che alla fine questa personalizzazione gli potrebbe anche tornare utile a Renzi, guardando il dopo referendum, perché già si ragiona sul dopo, si dà scontata la vittoria del no, si dice, perché appunto tutti i sondaggi poi negli Stati Uniti, si fa riferimento agli Stati Uniti e a Brexit, ma non dimentichiamo che sia negli Stati Uniti che nel caso di Brexit, sì, i sondaggi fino all'ultimo davano un testa a testa oppure rimonta di uno piuttosto che dell'altro, cioè ci sono state delle inversioni, no, di tendenza. Qui invece noi assistiamo a una tendenza che è monocorde, cioè il no è in vantaggio in tutti i sondaggi e da mesi, quindi non c'è mai stato il sì che a un certo punto è tornato su, il no che va giù. Quindi insomma mi sembra molto difficile che questi sondaggi possano essere sconfessati dal voto, a meno che veramente non ci sia, come dire, un accordo che una parte significativa di coloro che ancora sono indecisi se andare a votare sono tutti del no, e per cui allora a quel punto il sondaggio non vale più, perché se gli indecisi del sì vanno a votare e quelli del no invece non vanno, chiaramente sale il sì. Però insomma, ha detto questo, sono le previsioni un po' così che si fanno in questo momento, visto che di sondaggi non potremo più parlare per un po'. Approfittiamone sguazziamoci sul dopo Renzi, cioè dicevo il fatto che da un lato abbiamo Renzi e dall'altro tutti gli altri, e secondo molti osservatori il premier sfrutterà questo aspetto, no? In che senso quindi, Barbara? Se dovesse perdere questo referendum, noi abbiamo dall'altra parte un agglomerato abbastanza variopinto, cioè abbiamo i 5 Stelle, abbiamo la Lega, abbiamo il centro della sinistra, che va bene, italiana, una percentuale Forza piccola. Italia. E poi abbiamo il centrodestra, che peraltro è diviso al suo interno, come abbiamo visto in tutto questo periodo, insomma, con Salvini che fa l'agitprop modello Trump, che appunto vuole surfare sull'onda di Trump in Italia, e invece Berlusconi che non sembra per niente intenzionato di lasciargli campo libero, che addirittura nei giorni scorsi, ieri, ha detto che l'unico leader in Italia al momento è Matteo Renzi, escluso naturalmente lui, che però hanno buttato fuori dalla politica. Senti, lo sentirei un attimo questo passaggio, Barbara, di Berlusconi. Sì. Sentiamolo. In Italia, se devo dire la verità, i leader veri dentro la politica ce n'è solo uno, e si chiama Matteo Renzi. Fuori dalla politica forse c'è qualcuno che però dalla politica è stato buttato fuori. E si riferisce a se stesso. No? Certo. Ma come mai secondo te a pochi giorni, a 15 giorni dal referendum, dice una cosa del genere Berlusconi? Ma guardate, io sono tanti anni che seguo Berlusconi e vi devo dire che Berlusconi dice la verità molto spesso. Forse i nostri ascoltatori resteranno sorpresi, ma dice la verità, cioè dice esattamente quello che pensa, ovvero che l'unico leader politico in questo momento forte, capace, come dire, di rappresentare un'alternativa a un altro fronte è Renzi. Dall'altra parte comunque loro sono divisi, per cui non c'è qualcuno, nel Movimento 5 Stelle anche, vediamo, non è la figura di Grillo, no? Cioè del leader che si impone e quindi è trascinatore. Parliamo di Di Maio, poi ci sono i problemi, il direttorio, cioè non si capisce bene chi è il leader, ma un leader capace poi di concentrare su di sé la maggioranza dei consensi. Però questo problema non ce l'avremo noi italiani, perché dopo il referendum saremo tranquilli. Saremo perché tranquilli. Al di là di quello che giustamente oggi sottolineava la Banca d'Italia sul fatto che ci saranno turbolenze sui mercati. Insomma, un po' di allarmismo forse, anche il Wall Street Journal. Non è allarmismo, voglio dire, è abbastanza... Previsione. Cioè, qui non si deve pensare che questi siano messaggi per spaventare il complotto, eccetera, eccetera. È una cosa abbastanza banale. Un investitore essere un investitore istituzionale che vede che salta il governo e dall'altra parte non vede delle alternative, perché abbiamo detto appunto dall'altra parte c'è un insieme di personaggi abbastanza diversi l'uno dall'altro, quindi che non costituiscono un'alternativa, si chiede, oddio, che in Italia che succede? Ma noi lo tranquillizzeremo presto questo investitore, perché gli faremo capire che in realtà noi vogliamo tornare ai bei tempi, e quindi alla proporzionale con i giorni successivi alle elezioni, che diventeranno, per chi è più anziano dei nostri ascoltatori se lo ricorderà, diventerà appunto che governo si fa, che cosa succede. Si cercheranno le coalizioni, perché insomma i 5 Stelle vogliono il proporzionale, Berlusconi ha detto che vuole il proporzionale, mezzo PD sicuramente vuole il proporzionale perché teme che altrimenti Renzi non lo rimette in lista, quindi mi sembra che dopo il voto avremo sicuramente il proporzionale, magari con uno sbarramento per evitare proprio una frantumazione del voto. E quindi poi le alleanze, gli accordi di governo si faranno in Parlamento, insomma non ci sarà più l'idea un po' dell'Italicum, chi arriva primo vince. Senti Barbara, c'è Boris da Venezia che chiede, dice: per favore sarei grato di una risposta. Dice: Renzi aveva chiesto scusa per la troppa personalizzazione data al referendum che si terrà a dicembre, ma correre da una parte all'altra del paese per cercare di accaparrarsi voti cos'è? E quindi ma io al nostro ascoltatore rispondo, è politica. Non, cioè, è normale che un capo di governo che su questa riforma, come dire, ha speso tantissimo della sua credibilità anche all'estero, perché Renzi si è venduto all'estero dicendo io sto portando avanti le riforme, eccetera, eccetera, il mio governo è quello delle riforme. Quante volte abbiamo sentito questa cantilena? È normale, credo, che una volta che si arriva al dunque, cioè al verdetto sì o no, chi appunto crede nella propria battaglia politica la porta avanti. Non è che dall'altra parte fanno di meno, cioè dall'altra parte c'è poi questo discorso della personalizzazione, ma io ho, in tutti i discorsi che sento, anche Salvini sabato scorso a Firenze, ma piuttosto che Grillo, cioè l'attacco è anzitutto a Renzi, alla schifo riforma, per dirlo con Grillo, Brunetta, però insomma anche. L'attacco è sempre a Renzi, diciamo un po' se l'è cercata. Però Barbara, per chiudere invece, visto che citavi il centrodestra frammentato eccetera, sai che Stefano Parisi, ex manager, candidato sindaco di Milano, che era quasi arrivato lì a testa a testa con Beppe Sala, poi Beppe Sala l'ha sconfitto, però adesso ha lanciato questo suo movimento Energie per l'Italia, e Salvini dice un capopopolo senza popolo. Come giudichi questa creatura e questa iniziativa di Parisi? E anche qui ritorniamo alla psicologia berlusconiana. Berlusconi ha mandato avanti Parisi, però come dire, poi tutti coloro che lui manda un po' avanti a un certo punto si bruciano, sempre nelle intenzioni di Berlusconi si montano un po' la testa. E quindi tendono a voler fare tutto da soli, e lui praticamente gli ha tirato le briglie. Ora è chiaro che per Parisi portare avanti un progetto senza un partito dietro, perché è detestato da una parte significativa dei dirigenti di Forza Italia, senza alleati, perché comunque sia la Lega che la Meloni, cioè diciamo l'asse storico di alleanze del centrodestra, gli hanno già girato le spalle, non ne vogliono sentir parlare. L'ultimo è stato Berlusconi, che insomma ha detto vabbè, ma non si può candidare uno che litiga con tutti. Insomma, questo esperimento, a meno che appunto in questo rassemblement che potrebbe esserci nel post referendum non assistiamo a qualche ulteriore sorpresa. Ma chissà, Barbara, ti vuole lasciare con questa sorpresa? Ti dico solo che questa possibile sorpresa, Giorgia Meloni dice se vince il no il 5 marzo primarie del centrodestra, quindi ancora insistono, diciamo escluso Berlusconi, ma i vari Salvini, Meloni eccetera, vogliono prima o poi fare queste benedette primarie. Chissà se ci riusciranno con Berlusconi, ma che di solito, cioè, se avessero voluto farle davvero avrebbero già potuto farle. In realtà tutti vogliono le primarie, ma poi quando è il dunque si tira le primarie indietro, non piacciono. Ma, insomma, aspetteremo. Grazie intanto Barbara Fiammeri. Grazie. Ciao Barbara, a voi, buon fine settimana. Adesso stiamo per lasciarci molto brevemente. Stavo vedendo altri messaggi, per esempio di chi dice dei sondaggi prevale il no, dice Daniele, se vince il sì mi riservo il diritto in trasmissione di fare una grossa pernacchia a tutti i professoroni. Insomma, quando si dice che vincerebbe il sì, allora pernacchie se vince il no, e viceversa, ognuno ha la propria posizione. Comunque, secondo i sondaggi, per il momento, come avete sentito, prevale il no. Direi che ci fermiamo brevemente. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero 349-238-6666. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete ormai, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Quindi abbiamo sentito un po' tutte le notizie più importanti, il riassunto della giornata, e abbiamo fatto anche il punto politico della politica italiana con l'ultima possibilità di rendere pubblici i sondaggi, visto che dalla mezzanotte per legge non si può più. Ne abbiamo parlato ampiamente, abbiamo parlato delle varie posizioni. Adesso trasferiamoci invece tra pochissimo negli Stati Uniti. Intanto voi continuate con la pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio dice Francesco da Verona, se Renzi vincesse anche perdendo il referendum, anche se perde il 40%, significherebbe che lui da solo avrebbe ancora più di tutti gli altri. Vincitore perdente, cosa dite? Ma si vedrà, Francesco. E poi Luca dice: Grillo a me piace, ma non sa cosa significhi la politica. E poi Uliano da Modena scrive: se vince il no avremo 30 anni di grandi coalizioni, la palude della democrazia. Ognuno con la propria posizione, ognuno voterà secondo la propria coscienza, le proprie preferenze. Intanto direi che vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Il vertice di Berlino, il presidente americano Obama invita gli alleati europei a cercare soluzioni comuni con la prossima amministrazione americana. Stati Uniti, la squadra di Trump prende corpo, tra poco ne parleremo. I primi 1000 giorni del governo, non siamo soddisfatti, dice Renzi, ma le cose vanno meglio. E sul referendum Banca Italia avverte possibili turbulenze sui mercati, e oggi ultimo giorno per i sondaggi. E poi Roma, perquisite 19 società collegate all'ex candidato Marchini, operazioni sospette con la Popolare Vicenza, Popolare Etruri e Lazio, lui si dice sereno. Palermo, bufera sui 5 Stelle per le firme false, indagati dai PM, Grillo intima si sospendano. Il caso di Roberta Ragusa, Antonio Logli, marito della donna scomparsa nel nulla quasi 5 anni fa, ha ottenuto il rito abbreviato per il processo in cui è imputato per omicidio volontario della moglie e distruzione di cadavere. Quindi siamo collegati con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Caro Marco, buonasera. Che ogni tot ci sentiamo per capire come si sta delineando la squadra di Donald Trump a 2 mesi dall'insediamento ufficiale alla Casa Bianca il 20 gennaio. E allora, dopo Steve Bannon, che simpatizzante suprematista, cioè quelli che ritengono che la razza bianca sia superiore, in particolare il maschio bianco, come capo stratega è stato nominato nei giorni scorsi da Trump, nelle ultime ore sono arrivati altri nomi. Mike Pompeo come nuovo direttore della CIA, il suo ultimo tweet scrisse: non vedo l'ora di smantellare l'accordo nucleare con l'Iran. E poi come consigliere per la sicurezza nazionale il generale Flynn, simpatizzante di Putin. E poi il neopresidente ha indicato Jeff Sessions, senatore dell'Alabama, per il posto di segretario alla giustizia, lui che fu bocciato come giudice federale perché è ritenuto razzista. Le polemiche, insomma, non mancano le critiche, Marco. Sì, decisamente direi che hai fatto un riassunto esemplare delle ragioni delle polemiche. Diciamo queste prime tre diciamo pesanti nomine, perché ricordiamo che appunto le prime due nomine di Trump, cioè come ricordavi tu, Bannon poi il capo di staff Reince Priebus, in realtà sono nomine che non richiedono l'approvazione del Congresso, quindi sono così a discrezione del Presidente, quindi hanno generato polemiche, ma diciamo che così sono un po', diciamo così, intime come nomine. Queste, le tre nomine attuali, due delle tre nomine di oggi, invece sono nomine che dovranno andare al Congresso e quindi che genereranno anche polemiche pubbliche, polemiche politiche a 360 gradi a Washington. Sia il capo della CIA, Pompeo, come ricordavi, Pompeo, deputato del Kansas, che è, diciamo così, è nato, cresciuto sull'onda dei Tea Party, e diciamo così con un curriculum che da West Point passa per Harvard e poi però appunto arriva alle correnti ultraconservatrici appunto schierato contro l'accordo sull'Iran, uno dei grandi, diciamo così, prosecutor, uno dei grandi accusatori dell'amministrazione Obama e di Hillary Clinton per la tragedia di Benghazi, per le responsabilità presunte dell'amministrazione nell'aver sottovalutato i rischi di attacchi terroristici al consolato di Benghazi, che costarono poi la vita a 4 americani, compreso l'ambasciatore americano. Locale americano. Ecco, quindi lui, e poi appunto come ricordavi Jeff Sessions, altra nomina, diciamo, ministro della giustizia, che dovrà passare al vaglio del Congresso e che, come dicevi, ha un passato meno che cristallino, addirittura appunto è stato bocciato, come ricordavi, come giudice federale, nominato, no? Esatto, è stato nominato da Ronald Reagan come possibile giudice federale negli anni '80, bocciato da un congresso a maggioranza repubblicana perché è ritenuto appunto razzista, fa battute accattivanti sul Ku Klux Klan, così insulti, diciamo così, ai colleghi afroamericani, critiche alle leggi che garantivano il voto alle minoranze di colore, diciamo così, un passato appunto men che idilliaco. E oggi però arriva un sostenitore però di della prima ora di Donald Trump, che a questo punto così intasca il premio. La terza nomina è altrettanto controversa, anche se non richiederà in questo caso la conferma del Congresso. Quella del generale Flynn alla sicurezza nazionale. Esatto, un generale che suscitava polemiche anche dentro le forze armate. È vero che era arrivato a comandare l'intelligence delle forze armate, la Defense Intelligence Agency, ma fu cacciato dopo nemmeno due anni dall'amministrazione Obama, ma la fama che si era fatto all'interno era di un personaggio men che credibile. Diciamo, i suoi sottoposti, i suoi collaboratori erano soliti scherzare per il modo in cui raccontava i fatti, definendoli i Flynn Facts, i fatti di Flynn, perché non erano esattamente molto fattuali come fatti. E infatti poi, come grande sostenitore di Trump, un ex democratico, tra l'altro come grande sostenitore di Trump, si è poi distinto per affermazioni tipo è giusto e razionale avere paura dei musulmani, il radicalismo islamico in realtà è una minaccia epocale all'esistenza stessa del paese, cioè degli Stati Uniti, e via discorrendo, appunto con addirittura denunciato che secondo lui ci sarebbe una diffusione, una conquista da parte della Sharia negli Stati Uniti, come se si stesse diffondendo a macchia d'olio e inquinando i valori degli Stati Uniti. Marco, ci dobbiamo quasi lasciare, ricordo solo, l'avevamo già ricordato nei giorni scorsi, che Trump vuole a tutti i costi il genero, il marito della figlia Ivanka Kushner al suo fianco, nonostante ci siano delle leggi federali contro il nepotismo anche negli Stati Uniti. E poi c'è, dimmi solo, la Trump Tower, no? Lì a New York, il palazzo, il castello di Trump, si dice che i negozi lì intorno, da Tiffany a Prada eccetera, cominciano ad essere contrariati perché ci sono continuamente sistemi di sicurezza, guardie, cose che si riesce a passare. Perché si è trasformato in una specie di fortezza, chiaramente con barricate che bloccano in parte tutto il marciapiede sulla della Fifth Avenue, quindi siamo lì nel pieno centro di New York, quindi qualche difficoltà tutti i negozi, crea un po' di una sensazione di intimidazione, questa presenza appunto di estrema sicurezza, di barricate, che allontana sicuramente il consumatore normale, non quello che vuole fare il voyeur di Trump, ma il consumatore normale sì. Beh, un po' di traffico anche da questo punto di vista. Grazie a Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Arrivederci, ciao. Viabilità. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Vi ricordo molto velocemente il vertice di Berlino. Il presidente americano Obama ha invitato gli alleati europei a cercare soluzioni comuni, a lavorare collaborando con la prossima amministrazione americana. E poi, per quanto riguarda la squadra di Trump, prende corpo alla giustizia il senatore anti-immigrati, alla CIA il Falco Pompeo, alla sicurezza nazionale Session accusato di razzismo. Oggi conferenza stampa per i 1.000 giorni del governo. Renzi ha detto non siamo soddisfatti, ma le cose vanno meglio. Adesso spazio europeo. Europa 24 notte. Dalla conferenza sul clima a Marrakesh arriva la risposta a Trump, ribadito con forza l'accordo di Parigi, l'Europa sarà leader di questo processo. La COP22, la conferenza sul clima di Marrakesh, si conclude oggi con una dichiarazione nella quale si definiscono nero su bianco gli impegni presi a Parigi nella lotta al riscaldamento globale. Nel documento si cita il protocollo di Kyoto e si parla di contrasto al riscaldamento globale come processo irreversibile, una risposta indiretta alle affermazioni del presidente americano eletto Donald Trump, che ha definito il cambiamento climatico un inganno e ha minacciato di far uscire gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi. Mauro Albrizio è responsabile di Legambiente a Bruxelles ed era a Marrakesh. L'elezione di Trump ha movimentato l'agenda di una COP che era considerata di transizione, quindi qui si è messo in discussione quale può essere il ruolo futuro degli americani. Questo ha portato al momento ad un rafforzamento del tutti gli altri partner, che si porterà ad una dichiarazione politica, la cosiddetta Marrakesh Action Proclamation, dove il messaggio che si darà a Trump è che comunque il mondo andrà avanti nello spirito di Parigi, che è irreversibile. Noi, in rappresentanza dei paesi sviluppati, riaffermiamo il nostro obiettivo di mobilitazione di 100 miliardi di dollari, si legge nella carta di Marrakesh, che auspica che gli impegni entrino subito in vigore con obiettivi ambiziosi che si è posto l'accordo di Parigi e nel segno dell'inclusione. La dichiarazione invita tutti alla solidarietà nei confronti dei paesi più vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici. In questo momento a giocarsi la leadership di questo processo sono la Cina, e dietro sta lavorando e sta arrivando a grandi passi anche l'Unione Europea. In sessione plenaria Miguel Arias Cañete, commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, ha dichiarato infatti di aver blindato la partecipazione europea all'accordo di Parigi in termini irrevocabili, perché è quella che sta dalla parte giusta della storia. Giovanni La Via è presidente della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo ed era a Marrakesh. L'Europa esce con un ruolo sempre più centrale, perché ovviamente tutti guardano all'Europa come il soggetto che guiderà ancora questo processo, visto che gli Stati Uniti hanno un po' rallentato, la Cina guarda e attende segnali dagli Stati Uniti, e diventa ancora più importante il ruolo europeo, perché l'Europa guida il processo della lotta al cambiamento climatico e si muove con decisione per mettere in pratica gli impegni assunti da tutti a Parigi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.